Non gli hanno infilato nemmeno i documenti in tasca. L'hanno scaricato davanti a un ospedale e se ne sono andati. I dottori, quando li sono andati a cercare, ci hanno tenuto pure a raccontarmi che all'inizio si credevano proprio che fosse un extracomunitario. Ma quando me l'hanno fatto vedere, da un lenzuolo bianco ripiegato gli usciva fuori soltanto la testa. E a guardarlo bene, senza paura, c'aveva pure la faccia di uno che se stava a fa come un sogno. E quando gliel'ho baciato però il viso, che era freddo, ho sentito che era freddo. Oddio, com'era freddo. Però non ho pianto, no, perché il freddo a me mi era già sceso dentro tutta quanta l'anima. La faccia sua stava là, sì, ma a lui, alla luce che c'aveva dentro lui, e che era soltanto la sua, quella non l'avrei ritrovata mai più, per quanto mondo avessi girato, mai più, da nessuna parte, mai. E quando quelli dell'ospedale mi sono venuti a ridare i panni suoi, dentro una busta di plastica nera me l'hanno messi, io non l'ho voluti, no, perché non erano i suoi. Lui quella mattina mi aveva salutato a me e era uscito con altri vestiti addosso e con la tuta da lavoro. E mo io mi sono fissata che li devo ritrovare, i panni, quelli che portavo addosso quel giorno. Perché io sono convinta, io sono certa che quando li ritrovo, quelli, i panni, a me, mi riconoscono. E per forza che mi riconoscono. Con tutte le volte che l'ho lavati, piegati, stirati, abbracciati insieme a lui, quelli appena mi vedono, si mettono dritti in piedi, prendono forma e mi parlano. Loro mi parlano, loro me lo spiegano quello che è successo, loro me lo dicono. Guarda, è andata così, così, così, e poi così, e poi è cascato Pino. È cascato dall'impalcatura perché non ci stavano protezioni. E come poteva andare a finire altrimenti? Pino faceva il muratore. Faceva il muratore, costruiva le case, i palazzi, faceva il mondo, secondo me. Lavorava a pochi soldi, a nero, a giornata, una volta di qua, una volta di là. Ecco, certi signori che mi sono venuti a trovare a casa, a portarmi le condoglianze loro, mi hanno spiegato che sono tanti quelli che fanno sta fine. Si sono messi a raccontarmi che sono migliaia ogni anno quelli che fanno sta fine. Sono quelle chiamate le morti bianche, no? Mi hanno detto che in Italia ogni anno muoiono in media 1300 lavoratori per incidenti sul lavoro. Ci hanno avuto pazienza e tempo per me, perché mi hanno spiegato che gli incidenti avvengono soprattutto dentro alle fabbriche, nell'industria, oppure nell'edilizia, nei cantieri, come Pino. Poi mi hanno detto: ma lo sa quello che sta succedendo, signora? Che da gennaio a oggi, che è solamente giugno, sono morti 509 lavoratori in Italia, che c'è sta una media di 4-5 morti al giorno. E allora io gli ho detto, a quel momento, gli ho detto: aspetta un attimo, fermi un attimo. Fermi, perché voglio sapere se dentro a sto numero qua, quello che avete detto adesso da gennaio a oggi, che è solo giugno, c'è sta pure Pino mio. Se c'è scritto che è morto pure Pino mio e che non torna più pure Pino mio. Mi hanno risposto: no, signora. Perché vede, i dati non comprendono i lavoratori a nero, che pur essendo la stragrande maggioranza, non vengono registrati però perché nessuno li denuncia. Ma si figuri, signora, che nel mondo ogni anno muoiono 350.000 lavoratori per incidenti sul lavoro. E se uno, pensi, ci va ad aggiungere quelli che muoiono per le malattie che il lavoro produce, come il cancro o l'avvelenamento da sostanze nocive, allora la cifra, signora, arriva a quasi 2 milioni di lavoratori che muoiono ogni anno nel mondo. Oh, io sono rimasta a pensare, 2 milioni, ah oh, ma dove stanno allora tutte ste famiglie, tutta sta gente che rimane, che combatte, che chiede giustizia? Dove stanno tutti quelli che rimangono come me, che non trovano pace? Perché non sento nessuno gridà come io vorrei gridà? Perché nessuno grida come io vorrei gridà? La verità però è che mo vorrei gridà, sì. Ma mi vergogno a dirlo, ma mica ho gridato, manco io, quando è successo a Mimmino. Mimmino era uno che lavorava insieme a Pino sulle impalcature e che è cascato come Pino, però prima di Pino. Allora io sono andata al funerale di Mimmino. Io ho abbracciato la moglie di Mimmino. Io ho sorriso pure al figlio, un bambino uguale a lui. E poi me ne sono tornata a casa mia, mia! Perché va così il mondo. A ognuno pare che gli poi incenne solamente il suo. Tutta la vita, io me lo vedo chiaro, è un insegnamento alla viltà. Ma perché da piccoli, nasciamo pieni di coraggio, non ci fa paura a niente, e poi finiamo a morire, a crepavi gli acchi. Tutte le volte che ci hanno detto non mette bocca, non parla, non fa sentire che sei tu che ti esponi, stai indietro, non te fa vedere. Allora ci stavano a insegnare piano piano a essere vigliacchi. Tutta la vita è un ammaestramento come per le bestie, a diventare vigliacchi. Quando era successo a Mimmino, Pino mi diceva sempre: amò, non ti preoccupare, amò, non sta troppo in pena. Amò, lo sai che io so pratico, che a me non mi succede niente, che so 20 anni che sto sulle impalcature io. Amò, ma che non lo sai che io sono indiano? E che non lo sai, amò, che i grattacieli, quelli alti, infiniti, immensi in America, l'hanno costruiti tutti quanti gli indiani perché c'hanno il dono di non soffrire vertigini. Il dono. Io non lo voglio sapere quanti ne sono morti schiantati. Comunque, quei signori che mi sono venuti a trovare a casa a portarmi le condoglianze loro, io uno me lo ricordo più degli altri. Quello che quando sono entrati si è presentato come il sindacalista. Io me lo ricordo questo perché mentre andavano via, questo mi è venuto vicino, si è staccato dagli altri, mi è venuto davanti e mi ha preso le mani e me l'ha strette forte, forte, ma forte, e mi ha detto: signora mia, una tragedia come questa, un povero lavoratore buttato come una saccoccia davanti a un ospedale. Fosse successa 20, 30 anni fa, si sarebbero fatti i cortei e le manifestazioni, si sarebbero fermati pure gli operai delle fabbriche. Signora mia, ma mo so altri tempi, mo che vuoi fa? Fosse successa 20, 30 anni fa una tragedia così. Ma perché, dico io, ma che è una moda che cambia con le stagioni, denuncia un'ingiustizia, combatte un assassinio? E poi, ma che è diventato il lavoro di un sindacalista oggi? Quello di un prete che va a casa dei morti a portare la benedizione sua? E comunque tutta sta rabbia e tutto sto odio che io c'ho dentro, io lo dovrei rivolgere solamente contro me stessa, solo contro di me, perché io lo so che la verità è che io dovrei essere più preparata, pronta a combattere st'ingiustizia, a fare una battaglia per fare giustizia a Peppino. Perché io lo so quello che è giusto e quello che è sbagliato, io lo so come dovrebbero andare le cose, ma tutto quello che so, a me dalla testa alla bocca non mi ci arriva, non mi ci arriva alla bocca manco per dirvelo a voi, per farmi capire, non mi ci arriva perché io sento che mi manca qualche cosa, mi manca qualcosa che mi serve e che non c'ho, e che mi manca qualcosa. Tempo fa guardavo la televisione, la guardavo e basta, senza sentire, solo le immagini per passare il tempo. E guardavo e guardavo, tra una faccia di culo e un'altra, come diceva sempre Pino. Ma colpito invece l'attenzione la faccia di un vecchio. Era strano, perché a sto vecchio gli tenevano un microfono davanti alla bocca, ma non parlava, No. Sto vecchio sbatteva e sbatteva i piedi per terra, sbatteva i piedi per terra come un ossesso. E era strano, perché un vecchio non li sbatte i piedi per terra. Una creatura, sì, quando fa un capriccio, quando si impunta sbatte i piedi per terra, ma un vecchio no. E allora io mi sono domandata, ma che sarà un dolore grande, enorme, che ti fa arrivare a sbattere i piedi per terra così vecchio? No, non è un dolore manco grande che ti fa sbattere i piedi per terra. Mo l'ho capito. Perché per sbattere i piedi per terra ci vuole la rabbia. E infatti io mi sono messa a ascoltare e ho sentito che a quel vecchio gli era morto il nipote dei 16 anni. Al lavoro, a 16 anni era morto. L'avevano messo a saldare le tubature del gas. Sono esplose, ha preso fuoco su tutto quanto il corpo. Allora che hanno fatto i grandi, gli uomini? Se lo sono caricato su una macchina e l'hanno buttato davanti all'ospedale. Come Pino. La sfortuna loro però è stata che sto ragazzino dei 16 anni, dopo giorni d'agonia, sì, è morto, ma fino alla fine è rimasto lucido, con la testa, lucido, e ha potuto dire quello che gli era successo, con chi gli era successo e dove gli era successo. Avevo 16 anni, bruciato su tutto il corpo, ma lucido con la testa fino all'ultimo istante. Neanche un sacrificio così grande è bastato per fare giustizia. Perché la ditta è riuscita a far risultare sulla carta che sto ragazzino dei 16 anni lavorava in regola da un giorno, magari per un giorno, magari per quel fottuto giorno bastato per morire e basta, ma lavorava in regola. Perché la legge, se sa, è fatta apposta. Esiste apposta per risolvere i problemi di chi c'ha i soldi, dei signori, dei padroni. So quelli come me, come quel vecchio che rimangono a piagna, sbatte i piedi per terra. A dire, mi è successa la disgrazia, a non saper parlare. E che me ne frega a me di sta a piangere, di sta a dire che mi è successa la disgrazia. Io vorrei fare giustizia, perché io mica so scema. Io lo so chi l'ha ammazzato Pino. Io lo so chi l'ha ammazzato Pino. A cominciare da quel bastardo del caporale che quasi tutte le mattine se lo passava a caricare come una cosa sopra il furgone suo per portarselo chissà dove a guadagnare due soldi. Al palazzinaro de turno che se doveva sbrigattila sulla palazzina sua il più in fretta possibile, risparmiando soprattutto sulla sicurezza dei lavoratori, che erano quelli che la stavano a fare la palazzina sua, che la stavano a creare la palazzina sua. A quei bastardi che quando Pino è cascato si sono permessi di andargli vicino, di toccarlo, di levargli la tuta da lavoro e solo perché respirava ancora di buttarlo davanti all'ospedale invece di ficcarlo di nascosto sottoterra da qualche parte. Dico io, la giustizia dove sta? E la legge dove sta? E lo Stato dove sta? Lo Stato che dovrebbe difendere i diritti, la vita dei lavoratori, che sono quelli che la fanno, la ricchezza di un paese, che sono quelli che la creano con le mani loro, col sudore, con la giovinezza, con la vita, la ricchezza di un paese. Perché mi pare a me che lo Stato difende soltanto i diritti dei padroni, dei signori. Perché? Forse perché lo Stato, oddio, se uno ci pensa, lo Stato è fatto tutto quanto dai padroni. Andrea, 23 anni, si prendeva cura della sua famiglia. Viveva con il padre, la madre e la sorella più piccola. Ogni giorno percorreva 80 chilometri per andare a lavorare presso la ditta Asoplast in provincia di Ascoli Piceno. Di lui rimangono la tromba che amava suonare, custodita immobile in un angolo della casa, una fredda lapide di marmo con sopra qualche fiore, l'urlo lancinante lanciato mentre una pressa gli schiacciava il cranio mentre stava lavorando. La madre, Graziella Marota, dal giugno 2006 aspetta l'inizio del processo contro i responsabili della morte di suo figlio. Per 2 anni aspetta, nel dolore aspetta. Quando dopo 2 anni il processo inizia, l'udienza si risolve in fretta. I due responsabili, colpevoli di non aver messo a disposizione del lavoratore un'attrezzatura idonea, colpevoli di aver manomesso l'unico sistema di sicurezza della macchina per velocizzare la produzione, colpevoli di aver apposto il marchio CEE ad un macchinario non conforme ai requisiti di sicurezza, i due responsabili colpevoli vengono graziati, condannati ad 8 mesi con la condizionale, il pagamento di una piccola multa e la libertà, perché non è previsto il carcere per i padroni che ammazzano i lavoratori. Lo Stato, riconosce a Graziella Marota, madre di un figlio di 23 anni morto ammazzato al lavoro, 1.600 euro come rimborso per le spese funerarie. L'altro giorno al telegiornale ho sentito una notizia, veloce veloce, sparata veloce, che diceva che un gruppo di lavoratori egiziani, di operai, erano andati dal padrone loro a rivendicare la giusta paga per il lavoro che avevano fatto. In risposta a questa richiesta, allora è uscito il figlio del padrone, 19enne, e ha sparato all'impazzata contro di loro, uccidendo uno di loro. Ecco, sta notizia a me mi ha ricordato una notizia di qualche anno fa, che mi aveva lasciato tanto, tanto stravolta, tanto confusa, che diceva di un operaio sempre extracomunitario che un giorno aveva preso coraggio e davanti agli altri colleghi suoi, agli altri operai, si era permesso di rivolgersi al padrone loro e di dirgli: guardi che è troppo poco quello che ci dà, lei ci paga troppo poco per il lavoro che ci fa fa, lavoriamo troppe ore e troppo poco è la paga che ci dà lei, ci dovrebbe dare qualcosa di più e farci lavorare un po' di meno. In risposta a questa richiesta, il padrone gli aveva buttato la benzina addosso e gli aveva dato fuoco, davanti a tutti, mica di nascosto, come esempio, aveva detto lui. Allora qualche anno fa, quando ho sentito sta notizia, sono rimasta sconvolta e ho pensato: ma guarda la gente come sta, è esaurita la gente non ci sta più con la testa, sarà il caldo, che sarà? È pazza la gente, siamo tutti pazzi. E no, no. Perché quella non è pazzia e quella non è gente. Quelli sono padroni. E un fatto come questo ti dà il senso di quanto i padroni si sentano padroni. Pur d'ammazzacce, de bruciacce vivi, de ficcacce di nascosto sottoterra da qualche parte. Perché tanto sanno di essere impuniti. Perché tanto sanno che lo Stato è amministrato da politici che so i padroni. E fanno gli interessi loro. E da quegli altri, quelli che dovrebbero andare contro i padroni. Quelli che dovrebbero difendere i diritti dei lavoratori, quelli che dovrebbero portare avanti gli ideali della sinistra, quelli che quando vanno nei salotti televisivi si fanno grandi ripetendo la frase che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, lo dice l'articolo 1 della Costituzione Italiana. Ma che pentra dentro a quel salotto, gli hanno fatto provare il vestito buono, quello della festa, e una volta messo addosso hanno visto che gli stava proprio bene, che pareva fatto proprio apposta per loro, e non se lo sono voluto più levare. Quelli soprattutto, io lo so, che pesano sopra la morte di Pino. Carogne. Perché io lo so quello che è giusto e quello che è sbagliato. Io lo so come dovrebbero andare le cose. Ma tutto quello che so e che sento a me dalla testa alla bocca non mi ci arriva. Perché mi manca qualche cosa. Lo sento che mi manca qualche cosa. E me ne resto dentro casa, sola. E c'ho paura di tutto. Io c'ho paura di tutto e non faccio niente. Io c'ho paura pure di andarmi a dormire. Perché se io mi sveglio, quando mi sveglio, io all'inizio non mi ricordo niente. Anzi, sto pure bene. Poi passano 2-3 secondi. E io mi ricordo tutto in botto che Pino è morto e non ci torna più a sta casa. Io ogni volta realizzo come fosse la prima volta che Pino è morto e non torna più. Perché per chi ama qualcuno che muore, quello non muore una volta sola. Quello muore tutti i giorni, muore a tutte le ore, muore tutti i giorni. E io me ne sto dentro a sta casa vuota. Eppure se entro dentro una stanza, nella penombra, e vedo un giacchetto appoggiato a una finestra. Oh, io penso subito che Pino, ma non è Pino, ma che in giacchetta è un uomo. Un uomo non è un giacchetto e non è nemmeno un'ombra. Non ci torna più Pino a sta casa. Eppure il letto nostro, che è troppo grande per me sola, che prima era pieno d'amore, ma è una cosa viva a metà. Io sono una cosa viva a metà. E la casa è vuota e Pino non torna. Non torna Pino a cantare tutto quanto sguaiato, stonato, gli stornelli romani solamente per farmi ridere a me. Tanto per cantare perché mi sento un friccicone nel cuore. Tanto per cantare perché nel petto mi ce naschi un fiore. Ah, Pino, mi sa che mo un fiore dentro al petto te ce nasce per davvero. E non gliene frega niente a nessuno. Se uno muore, non gliene frega niente a nessuno, purché sia sconosciuto e lontano. E poi succede come una cosa strana. Succede una cosa strana perché la testa mi fa come uno scherzo. Madonna, la testa mi fa come un gioco. Oh, la vita mi fa come un dispetto, porco mondo. Perché in un dolore che ti sembra solo dolore, che ti sembra che ti devi ammazzare domani. Oh, la vita te fa come uno sfregio, te comincia a far ritornare alla mente i pensieri belli, i momenti belli della vita tua, durante i quali sei stato felice, quando sentivi che non ti mancava niente, e la vita nel dolore te dice: guarda che c'è vita. E io sti giorni non faccio altro che ricordarmi, che rivedemme dentro a sta casa, quando ero giovane giovane, quando non c'avevo niente, ma ero giovane giovane, non c'avevo niente, ma avevo scoperto i libri. Ah, oh, i libri. Non c'avevo niente, ma c'avevo i libri e c'avevo pure una bicicletta. E io mi ricordo che quando stavo a leggere un libro che avevo amato tanto, tanto, arrivavo a leggere le ultime pagine lenta, lenta, perché c'avevo paura che il libro finisse. Poi però, quando il libro, vabbè, oh, era per forza finito, allora io ci provavo a girarmi un po' per casa. Ma quando te brilla dentro alle vene il sangue della giovinezza, perché il sangue lo sa più della capoccia quello che vuole la vita, e quando te brilla dentro alle vene, ma come fai a stattene chiuso dentro casa? Allora io contavo uno, due, tre, e poi salivo in groppa alla bicicletta mia e cominciavo a pedalare, pedalavo, pedalavo, giravo per i viali, i sentieri, abitavo in campagna, i cani mi correvano appresso arrabbiati, ma non mi faceva paura niente, il vento mi sbatteva in faccia e io pedalavo, pedalavo, cercavo la strada, la via che una volta imboccata mi avrebbe fatto accedere al luogo nel quale avrei ritrovato per incanto le voci, le storie, i personaggi, gli autori del libro che avevo appena letto e che una volta finito mi mancavano, come l'aria mi mancavano. Oh, quando hai letto un libro che hai amato tanto, i personaggi, le storie te mancano e io le cercavo dappertutto come l'aria. Io nella capoccia mia ero convinta che nella campagna intorno a casa mia avrei trovato de colpo la Jorsenar, De Ledda, Montale, Calvino, Pasolini e tutti, tutti, tutti pronti a perdere tempo a parlare con me. Va da sé che non ho incontrato mai nessuno. Anzi, eppure quella stronza della bicicletta mia, a dirla tutta, che diciamo che era la migliore amica mia, l'unica amica mia, una sera mentre rincasavamo, mogge mogge, mosce mosce, perché lei si era bucata una ruota e io gli facevo coraggio, la portavo a lei fino a casa, ho cominciato a sentire uno strano sibilo nell'aria che diceva: tu sei pazza, ma io no, tu sei pazza, ma io no. Ah, oh, mi sono fermata, mi sono guardata un po' intorno, mi sono girata a destra e a sinistra, ho visto lei, c'era solo lei, gli ho detto: oh, ma come, la migliore unica amica mia, ma che vuoi, ma se non c'è un po' di comprensione te, ma se è una persona un po' sola, gli levi pure un po' di fantasia, ma che gli rimane? E invece questa stronza, bastarda e traditrice, come tutte le migliori amiche, continuava: tu sei pazza, ma io no, tu sei pazza, ma io no. Allora l'ho appoggiata a un muro e non l'ho ripresa più. Solo che se non c'è riuscita la bicicletta mia a farmi passare tutte le fantasie, ce si sono messi in tanti. La vita è piena di gente che te vuole far passare tutte le fantasie. E così io, giovane giovane, fresca fresca, ho chiuso i libri e me ne sono andata a lavorare. A lavorare. Ho trovato andare a servizio, a ore, a nero, nelle case della gente. Sì, nelle case dei signori. E subito ho imparato che la cosa più faticosa di un qualsiasi lavoro di fatica, la fatica più grande di un qualsiasi lavoro di fatica, è riuscire a farsi pagare. Ah, oh, è come averci un altro lavoro, tu puoi tranquillamente andare in giro a dire che c'hai un secondo lavoro. E quale? De sti tempi un lavoro e un secondo lavoro. E quale? Riuscire a farmi pagare il lavoro che ho fatto. E più c'hanno i soldi, più ve fanno disperare. E io mica ho fatto solamente lavori a servizio, ore nelle case. Però, se ci penso bene, ho lavorato sempre a nero e sempre con l'acqua alla gola. Perché lo impari con il tempo che c'è sta una regola, la regola fondamentale del lavoro, che vuole che un lavoratore se debba guadagna sempre quel minimo indispensabile che gli permetta di sopravvivere, e quasi niente di più, perché se no mi diceva sempre Pino mio. Ma come farebbero a tenerti la capoccia schiacciata sotto i piedi? Pensaci, amò, ma come farebbero mai a tenerti la capoccia schiacciata sotto i piedi? Il bisogno, amò, mi diceva Pino, deve essere un serpente che se morde all'infinito la coda. Il bisogno è un serpente che se morde all'infinito la coda. A proposito dei serpenti, se penso all'insegnamento maggiore che mi ha dato mia madre, in buona fede, me l'ha ripetuto tutti i giorni della vita mia, da una orecchia e pure da quell'altra, ma sempre detto: ricordati, figlio mio, ricordati che tu dovunque vai, con chiunque stai, qualunque cosa fai, ricordati che stai sempre lì nella bocca del pericolo. E madonna, ma grazie, però mi ha fatto venire paura di tutto quanto. Oh, io c'avevo la paura della paura. Cioè vuol dire che io da lontano cominciavo a avere paura che solo la paura potesse arrivare. E quando la paura era arrivata, perché me l'ero pure bella che chiamata, io ero talmente stanca per aver combattuto la paura della paura che non ce la facevo più a combattere la paura. E sta paura diventava sempre più paura, e sempre più paura, e sempre più paura della paura, della paura, della paura, che nessuno me lo leva dalla capoccia a me, che pure questo della paura deve essere uno di quei serpenti che si mordono all'infinito la coda e che ci imprigionano, come diceva Pino. Fatto sta però che la capoccia fa strani scherzi, perché io sta bocca del pericolo me la so cominciata a figurare veramente. Ah, oh, io dovunque andavo, con chiunque stavo, me la vedevo dappertutto. Io vedevo le guance intorno, io sentivo la lingua dietro, che schifo. Io vedevo i denti davanti. E come tutte le cose che ci terrorizzano, io zitta zitta, buona buona, senza fanfiato, mi ci accucciai dentro, perché speravo dentro di me che se non si accorgeva che io stavo là, non mi masticavano, non mi divorava. E allora ho imparato a sopravvivere col minimo indispensabile. Tenevo tutto lontano, soprattutto le cose belle, quelle che mi avrebbero potuto dare un'emozione, un fremito, una scossa di vita, tutto lontano. Io, nella capoccia mia, m'ero figurata di essere come Geppetto, sì, che dentro alla bocca della balena, che poi a dirla tutta era un pesce cane, viveva zitto zitto, buono buono, con tutte le cosette sue, senza fanfiato. E poi, come per Geppetto, quando durante una notte, in una terribile tempesta in mare, la bocca del pesce cane si spalancò e ingoiò Pinocchio, oh Pinocchio, e i due si poterono rincontrare, cominciò a desiderare il mondo, la vita, fuori gli altri, oh, pure nella bocca del pericolo mio c'è cascato senza volerlo il Pinocchietto mio, Pino. E sta bocca del pericolo è diventata, che mi faceva tanta paura, è diventata invece una casetta piccola, una casetta che sembra niente di speciale, niente di che, ma piena di musica, piena di fiori, piena di pranzi, di cene, d'appetito soprattutto, di briciole dentro al letto, d'asciugamani per terra. E io non c'ho più paura il giorno, perché se io sento che la paura sta per arrivare, mi concentro e penso che Pino la sera, quando ritorna a casa, pure se è stanco stanco, se beve un bicchieretto di vino rosso e comincia a fa lo scemo, comincia a fa finta ad essere embriaco, friacico, fragico, e a cantare tutto stonato, sguaiato, ridicolo, gli stornelli romani solamente per farmi ride a me. Ma la verità è che Pino non torna più a casa. La verità è che Pino non torna più. La verità è che il piatto, il bicchiere che ho messo a tavola non servono più. E nemmeno i fiori che continuo a mettere a centro tavola, che sono abbuffonate e basta, non servono più. La verità è che Pino era uno dei tanti. Sono migliaia ogni anno che fanno sta fine. Sono quelle che si chiamano le morti bianche. Così c'hanno pure un aspetto innocente e nessuno c'ha colpa. La verità è che Pino non era solo, è uno dei tanti, migliaia. So tanti come Pino, migliaia, tanti pini, come la foresta immensa dei pini maestosi abbattuti. Ma ti puoi pure consolare, perché non era mica solo il tuo. E ti puoi pure consolare. E no! E io non mi consolo! E io devo combattere e fa giustizia per Pino. Per una morta assassinata devo combattere e fa giustizia. Come lo grido sto dolore? Come la faccio giustizia? Che pensate che sono matta? Io non sono matta. Allora ve lo chiedo a voi, ditemelo voi, datemelo voi un consiglio. Che dovrei fare? Ditemelo voi quello che dovrei fare. Voi, al posto mio, che fareste? Ve lo so chiedo a voi, scema. La verità è che io lo so, è che io l'ho imparato da me. Che a sto mondo, a ognuno, gli incenne solamente al suo. E se uno muore, non gliene frega niente a nessuno, purché sia sconosciuto e lontano.